un lavoro redditizio ma comporta dei pericoli. Un business sotterraneo che si espande dentro i vicoli. Commercio globale dal Marocco all'Ohio, credimi, non dormi bene. Con 3 chili nell'armadio vendi rilassatezza con la paranoia addosso. Pronto al primo segnale a scappare a più non posso. Non ha un contesto dolce, pure si commercia crema. Un viaggio nell'illegale con il virus sulla lama. Poche le parole, un discorso assai conciso. Lavori outdoor e la piazzetta è il tuo ufficio. Devi essere freddo, veloce, rapido e preciso. Per ogni quantitativa hai pronto un taglio ben deciso. I carichi pacco ti assicuro non funzionano. Più fai le storie serie più i clienti si affezionano. Sempre la mossa giusta per uscire dall'impaccio. Imperia 2005, odissea nello spazio. Chiunque fuma, dimmi chi è che non fuma. Vieni pure a cercarmi se sei uno che consuma. Ti posso dare tutto ciò che vuoi senza problemi. Se mi vedi, chiedi, esaudirò tutti i tuoi desideri. Chiunque fuma, dimmi chi è che non fuma. Vieni pure a cercarmi se sei uno che consuma. Ti posso dare tutto ciò che vuoi senza problemi. Se mi vedi, chiedi, esaudirò tutti i tuoi desideri. Cerchi di uccidere il mercato e per farlo abbassi i prezzi. Ma non ti espandi troppo, se non fioccano gli arresti. I sbirri sono ovunque, anche dove non diresti. Sanno tutto di tutti, quanto vendi e quanto acquisti. Si muove molto denaro, è un fiume sotterraneo. Capitali nelle stive, solcano il Mediterraneo. È il virus del THC, dove attecchisce invade. Puoi vederlo brulicare, è il virus delle strade. Zero polverine, solo roba da fomento. Che ti entra nel cervello, aumenta il tempo del rilassamento. Fomento col mio fare un mondo illegale. E dove arrivo io, tu ti accorgi che il polleggio sale. Amo fumare, sta questione a me non sembra strana. Alla faccia di Berlusconi, viva la marijuana. Per gli sbirri una sfida persa in partenza. Perché mi porti via il fumo, ma me ne rimane l'essenza. Chiunque fuma, dimmi chi è che non fuma. Vieni pure a cercarmi se sei uno che consuma. Ti posso dare tutto ciò che vuoi senza problemi. Se mi vedi, chiedi, esaudirò tutti i tuoi desideri. Chiunque fuma, dimmi chi è che non fuma. Vieni pure a cercarmi se sei uno che consuma. Ti posso dare tutto ciò che vuoi senza problemi. Se mi vedi, chiedi, esaudirò tutti i tuoi desideri. È il business della strada che noi ricicliamo in musica. È il contesto della vita che io trasformo in metrica. Pure considerato come una minaccia pubblica, io continuo a spingere la mia parte eretica. Che tama caramello, marijuana ed idroskank. Baffo, carciofo, bomba, lotto e punk. Fuori con il sole oppure con la neve. Facciamo suggiunture piene come si conviene. Di questo strano gusto pieno cerebro e le vene. Più è gustoso il business, più mi prendo bene. Chiunque fuma, dimmi chi è che non fuma. Qui la legge non si infrange, la legge si frantuma. E insieme alla legge anche la gente si frantuma. Facciamoci una canna, tanto qui chi è che non fuma. Oh, ma come cazzo ci siamo finiti a sta festa di ricogne? Non lo so, non lo so, tu fottitene, tanto qua fumano tutti. Cazzo, sta fumando anche lui, guardalo. Incredibile. Consenta. Chiunque fuma, dimmi chi è che non fuma. Vieni pure a cercarmi se sei uno che consuma. Ti posso dare tutto ciò che vuoi senza problemi. Se mi vedi, chiedi, esaudirò tutti i tuoi desideri. Chiunque fuma, dimmi chi è che non fuma. Vieni pure a cercarmi se sei uno che consuma. Ti posso dare tutto ciò che vuoi senza problemi. Se mi vedi, chiedi, esaudirò tutti i tuoi desideri.